Incontri di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano con questo brano dei Pink Floyd, Money, dall'album The Dark Side of the Moon, uno degli album più venduti nella storia della musica. Diamo il benvenuto e buonasera ad Alfonso Marra. Buonasera. Alfonso Marra, prima di presentare chi è lei, ci dica perché ha scelto i Pink Floyd e non per esempio i Beatles, che sono un po' più famosi, ma i Pink Floyd hanno segnato anch'essi la storia della musica, la storia del rock, la storia della musica, diciamo così, un po' giovanile forse. Beh, allora, intanto sì, diciamo che sono uno dei più bei ricordi musicali della mia adolescenza, perché io ho 56 anni e quando ho incominciato ad apprezzare tutta la musica di tutti i generi, i Pink Floyd erano al loro apice. Dark Side of the Moon era in quel momento uno degli album più interessanti e più attraenti per la nostra nuova generazione degli anni 70, cioè negli anni 70, e quindi mi è rimasto nel cuore. Poi Money non si riferisce all'attività che svolgo ora, ma sicuramente è uno dei brani più belli del periodo. Ecco, Money sì, in qualche modo però si riferisce. Alfonso Marra è amministratore delegato di Kloppmann International, una società che non ve la presento io. Ci dica lei, dottor Marra, in poche parole che cos'è Kloppmann International? Kloppmann International è una piccola OSI internazionale che è basata territorialmente a Frosinone, quindi nel Lazio. È un'azienda che ho il piacere di presiedere da circa un anno e che ho scoperto perché non conoscevo, ed è un'azienda che ha filiali in tutti i paesi europei, anche in Europa dell'Est, in Russia, in Medio Oriente, in Dubai, una joint venture in Indonesia. E produciamo tessuti tecnici per abbinamento a lavoro. Kloppmann è il leader europeo, il più grosso produttore europeo di tessuti tecnici per abbinamento da lavoro ed anche il più stimato e il più famoso, il più conosciuto nel settore. Essendo business to business, chiaramente non è molto conosciuto o non è conosciuto dalla gente comune, ma nel settore è un leader ed abbiamo l'orgoglio di essere leader rispetto ai tedeschi, ai francesi, agli inglesi, che normalmente ci surclassano, almeno i tedeschi, per quanto riguarda tecnologia e sviluppo prodotto. Ecco, è un'azienda italiana perché ha il suo centro produttivo a Frosinone con quasi 400 dipendenti, ma è di proprietà indiana. Sì, è un'azienda che ha avuto per lunghissimi anni una proprietà nordamericana stabile. È stata fondata negli anni 60 dal gruppo Burlington, produttore delle lane, per lanciare dei tessuti prodotti con il cotone poliestere. Per moltissimi anni è stata sempre nelle mani e la proprietà dei nordamericani, per questo si è creata qui una diffusa cultura internazionale. Dopodiché negli anni 2000 è stata acquistata da un fondo di private equity italiano e nel 2008 finalmente i nostri attuali azionisti, che sono degli investitori indiani, hanno avuto la possibilità di comprare dal fondo di private equity. Essendo loro dell'ambiente del tessile, conoscendo molto bene il nostro marchio, hanno fatto carte false per poter acquistare questa azienda e la gestiscono come un gioiello. Hanno mantenuto il management, la nostra organizzazione, hanno chiamato me per dare una spinta ancora più di internazionalizzazione a questa azienda, e questo è un bel caso in cui l'eccellenza italiana viene acquistata da stranieri ma ben coccolata e ben gestita in Italia. Quindi hanno tutta l'intenzione di restare in Italia con la produzione. Si dice che fare industria in Italia, fare manifattura sia complicato, voi dimostrate in fondo che è possibile, anzi può essere competitivo. Assolutamente sì, è chiaro che per fare industria in Italia, come stiamo cercando di fare noi tutti i giorni, bisogna avere delle caratteristiche. Alcuni prodotti, anche nostri, ma un po' di tutti i settori industriali, sono diventati delle commodity. la globalizzazione, l'ingresso dell'Asia nei grandi mercati, la Cina, il WTO, eccetera, ha fatto in modo che alcuni prodotti, è un dato di fatto, non possano più essere realizzati in Italia e neanche in Europa. Bene, altri prodotti invece sì, dove c'è tecnologia, dove c'è know-how, dove c'è innovazione, allora noi stiamo lavorando su questo, continuiamo a lavorare su questo. È chiaro che anche noi abbiamo dovuto andare a produrre in Asia con questa joint venture che abbiamo creato in Indonesia, ma per servire il mercato asiatico di prodotti commodity, mentre continuiamo a fare i prodotti di più alto valore aggiunto, di più alta tecnologia in Italia, stiamo investendo su innovazione tecnologica anche sotto il profilo dei macchinari per mantenere in Italia la nostra presenza europea. Quindi non si tratta di delocalizzazione, ma di ampliamento dell'attività, di avvicinamento ai mercati, di possibilità di essere più competitivi. Perché l'Indonesia? Allora, io ho trovato una trattativa ormai avanzata con questo gruppo indonesiano e ne sono stato molto felice. Io ho una lunga conoscenza del mercato indonesiano. Io con il gruppo precedente, con cui ho lavorato per 20 anni, ho lavorato per più di 20 anni con il gruppo Swarovski, avevo già aperto un'azienda, una Greenfield nel 1996 e quindi conosco molto bene gli indonesiani sotto il profilo del lavoro, del business e quant'altro. L'Indonesia è una ottima scelta di apertura di uno stabilimento asiatico, ha delle caratteristiche interessanti, i lavoratori indonesiani sono abbastanza bravi nelle attività manuali perché hanno una lunga tradizione di artigianato, quindi hanno manualità, hanno dimestichezza con l'attività manuale di un certo tipo, sono abbastanza affidabili, anche se chiaramente con tutti i limiti e con tutte le differenze di un popolo asiatico che ha delle culture, una cultura molto differente dalla nostra. E hanno anche un certo interesse per l'Italia, come dimostrano alcune vicende calcistiche recenti. Quello c'è sempre stato, sa, perché già negli anni 90 quando andavo in Indonesia, quando passavo al controllo passaporti, mi dicevano italiano, Baggio, perché poi Baggio al tempo era l'eroe del calcio. Sì, allora l'interesse indonesiano verso il calcio italiano è altissimo, quindi non mi stupisco che Mister Tohir abbia investito in Italia, perché guardi, il campionato italiano, c'è una specie di tutto il calcio minuto per minuto, fatto in Indonesia, dove seguono il calcio italiano in TV tutte le domeniche. Strano ma vero, possiamo dire. Ecco, lei ha parlato della sua precedente esperienza del gruppo Swarovski, un gruppo austriaco mi sembra. Sì, austriaco. Ecco, sì. Come è capitato in Austria partendo da Lecce? Lei è di origine pugliese, sì, salentina. Sì. Io sono nato nel barocco leccese a Nardò in provincia di Lecce. Beh, insomma, sono capitato come tanti che fanno la carriera manageriale. Nel 1990 sono entrato nel gruppo Swarovski a Milano e poi nel 94 sono diventato amministratore delegato dell'azienda industriale che era stata comprata in Italia, in provincia di Vicenza, e da lì ho fatto tutta la mia carriera, diventando poi direttore di una divisione mondiale, poi amministratore delegato, spostandomi a vivere in Austria, amministratore delegato della holding industriale che si chiama Tirolit dal 2005 al 2011-2012. Ecco, è stata una bellissima esperienza perché ho vissuto con un'azienda di dimensioni molto grosse, ma ancora di proprietà al 100% di una famiglia fra virgolette illuminata, perché ha delegato al management la gestione e anche parte della strategia già da tantissimi anni, quando invece sappiamo benissimo che il capitalismo familiare italiano purtroppo ancora non ha fatto questo passo di sviluppo. E ha qualche nostalgia della vita in Austria? Veramente no, perché la vita, intanto la vita in Austria, sa, il quartier generale del gruppo è in Tirolo, vicino ad Innsbruck, posto bellissimo per farci le vacanze, certo, ma insomma per viverci è un po' difficile perché la temperatura è sotto zero parecchi mesi all'anno e poi chiaramente se io devo comparare la qualità della vita, per esempio, che c'è qui nel Lazio, a Frosinone, il cibo italiano con quello austriaco, insomma, non c'è confronto. Non c'è confronto, anche se c'è a chi piace. Incontri. Money, it's a crime. Share it, fail it, don't take a slice of my pie. say is a root of all evil today. Grazie ai nostri ascoltatori, ancora con i Pink Floyd, con Money dall'album The Dark Side of the Moon. Riprendiamo il nostro incontro con Alfonso Mara. Alfonso Mara, amministratore delegato di Kloppen International, ci ha spiegato nella prima parte che Kloppen International è una grande azienda specializzata nella produzione di tessuti tecnici, leader europeo in questo settore, ma un'azienda che vende in tutto il mondo, presente adesso anche con la produzione in Indonesia, ha il suo quartier generale a Frosinone con quasi 400 dipendenti, uno stabilimento di 70.000 metri quadri. Dicevamo con il dottor Mara, è possibile fare industria, manifattura in Italia, anche se un po' complicato. Quali sono gli ostacoli maggiori che incontra un imprenditore, chi ha uno stabilimento produttivo, che produce e vende soprattutto all'estero come voi? Che difficoltà incontra, dottor Mara, in Italia? Ma guardi, io ritengo che in questo momento, e credo che sia chiaro a tutti, l'ostacolo più grosso che incontra un imprenditore o un management che deve sviluppare un business italiano all'estero è la mancanza di intermediazione finanziaria. Purtroppo, da Basilea al credit crunch a tutto il resto, ha fatto sì che ci fosse un effetto altamente negativo su tutte quelle che sono le attività di sviluppo, ma anche di mantenimento del working capital di un'azienda che è molto attiva all'estero. Non dico le aziende che lavorano solo in Italia, che hanno anche ancora più problemi. Noi però, che lavoriamo per il 95% per l'export, abbiamo anche noi delle difficoltà nate da questo credit crunch. Ma è una difficoltà più di struttura, nel senso che le banche italiane non sono attrezzate ad essere presenti sui mercati internazionali con le garanzie, con i crediti e così via, o è un problema congiunturale legato a questo momento sicuramente un po' complicato? Ma io ritengo che non sia né l'uno né l'altro, probabilmente il problema è strutturale, ma non perché non siano attrezzate a supportare le aziende all'estero, è perché le banche italiane mi sembra che non siano riuscite negli ultimi anni a fare quel salto qualitativo per riuscire a fare impresa. Probabilmente negli ultimi anni è stato molto più facile fare utili con operazioni strutturate, derivati e quant'altro, invece che fare l'attività giornaliera di intermediazione bancaria, quindi di affiancare imprenditori, capire il loro business. Lei pensi soltanto, e questo credo che tutti ormai lo sappiano, i famosi direttori delle filiali, che una volta erano diventavano quasi amici e parenti degli imprenditori con cui condividevano le gioie e i dolori delle aziende. Oggi questi direttori non hanno più poteri, non possono più far niente, tutto è delegato a strutture centralizzate delle grandi banche o delle medie banche, le quali erogano il credito e lo prendono e lo lasciano e lo aumentano e lo diminuiscono sulla base di numeri inseriti nel sistema informatico e rating interni. È un punto di vista, credo, abbastanza sterile dell'industria. L'industria è molto più complessa e le banche dovrebbero capirla in un modo differente. Ecco, in questa prospettiva lei appunto ha molti rapporti internazionali, in altri paesi il sistema del credito è più fluido, più capace di affrontare e sostenere le imprese? Direi di sì. Direi che il sistema bancario in altri paesi, conosco bene il sistema austriaco, un po' quello tedesco, ma anche per vari contatti quello americano, hanno ancora il ruolo di affiancare l'imprenditore nella sua attività imprenditoriale, capire, conoscere, comprendere gli sviluppi, le criticità, le stagionalità, le difficoltà e dare il supporto necessario. Questo vuol dire fare impresa anche come banchieri e bancari. In Italia invece, a mio avviso, questo si è perso. Si è perso il ruolo della banca classica, non c'è un nuovo ruolo di banca moderna. E quindi il denaro, money, come dicevano i Pink Floyd, diventa un problema, resta un problema perché è uno strumento, sicuramente uno strumento, ma va utilizzato e per utilizzarlo bisogna che ci sia. Tornando all'aspetto produttivo, diciamo commerciale, come ci vedono all'estero? Che fiducia c'è verso le produzioni italiane? Il Made in Italy è ancora un elemento competitivo? Ma guardi, allora intanto come ci vedono all'estero, io negli ultimi anni ormai ho una frequentazione di tutti i mercati asiatici, specialmente anche sudamericani. È chiaro che l'Italia, il Made in Italy, è sempre ben visto e ben rispettato, però in via di massima, specialmente in Asia, ormai va avanti un modo di pensare dell'Europa in generale e dell'Italia anche in particolare, che evidenzia un po' la nostra vetustà, il vecchio continente, insomma ci vedono un po' quelli del passato, quelli che non hanno più lo spunto, diciamo non giovani rampanti ma un po' maturi, attempati, con le tempie grigie e la pancetta. Allora questo chiaro che non si può riferire a tutte le aziende, a tutti i settori, però gli anni massima, specialmente dall'Asia, gli asiatici, il punto di vista con gli occhi a mandorla è questo, l'Europa è un po' il vecchio, ecco. D'altro canto però rispettano molto quello che noi abbiamo raggiunto finora e quindi, come si può ben capire per esempio quando i nostri azionisti hanno investito qui, i marchi e il know-how nostro fanno ancora molto gola. Ecco, si è parlato molto negli ultimi anni della Cina, della grande crescita di questo paese, però non c'è solo la Cina, in Asia. Quali sono secondo lei i mercati più promettenti, quelli su cui bisognerebbe puntare, non come alternativa alla Cina, ma per cercare proprio di diversificare da parte di un'impresa la propria attenzione al mercato globale? Ma guardi, tutto il sud-est asiatico è un mercato veramente molto interessante. Allora, quando si pensa alla Cina, chiaramente i numeri sono immensi, però la Cina ha delle peculiarità, delle difficoltà, complessità distributive immense, perché è un territorio così esteso e con delle differenze fra quello che succede nelle zone costiere e l'interno sotto il profilo dei consumi e della distribuzione, che è veramente complesso. Invece se si va a pensare per esempio a tutti i paesi del sud-est asiatico, quelli che vengono denominati l'ASEAN, quindi Thailandia, Indonesia, Malesia, Singapore, Filippine, sono mercati giovani, sono paesi giovani costituiti da una popolazione molto giovane, molto attivi, molto interessati a tutto quello che è innovazione, a tutto quello che è sviluppo. E poi ci sono tanti, cioè l'Indonesia ha 250 milioni di persone, la Thailandia ne ha 60, quindi sono mercati che possono dare veramente delle soddisfazioni. In più si continua a pensare a quei paesi come mercati comunque poveri, certo. Oddio, potrebbe anche essere, dipende dai prodotti che si hanno, però io vorrei fare un esempio. Giacarta è una città, non si sa bene quanti abitanti abbia, diciamo intorno ai 15 milioni, perché non c'è un'anagrafe ben chiara. Comunque, di quei 15 milioni, 5-10% sono i benestanti ricchi. Quindi il numero di benestanti ricchi potrebbe essere intorno al milione, milione e mezzo. Diciamo l'intera popolazione di Milano riportata a Giacarta con un potere di spesa molto alto. Ecco quindi che anche chi ha dei marchi, dei prodotti di alto livello può trovare un pubblico interessante e interessato anche in un posto come Giacarta, che è fatto dal 90% di gente povera o non abbiente. Ecco, quindi le prospettive ci sono, l'Italia appunto è un paese che è aperto alla globalità, l'export è cresciuto, uno dei pochi elementi economici che sono cresciuti negli ultimi mesi, negli ultimi anni, ma che cosa si può fare in Italia, che cosa può fare un nuovo governo per sostenere quella che viene chiamata la politica industriale? Abbiamo già accennato al credito, il credito dipende da tanti fattori, ma proprio a livello di sostegno alle imprese, non di aiuti o di incentivi o di assistenzialismo, di sostegno reale le imprese, che cosa può fare un governo? Beh, intanto un governo deve avere una politica industriale chiara e non è proprio stato così negli ultimi anni. Secondo, io posso raccontare una mia esperienza che tanti anni fa già mi ha spiegato la differenza fra alcuni governi europei e i governi italiani. Nel 1996, quando, come prima avevo citato, ho creato un'azienda produttiva in Indonesia, sono andato in Indonesia insieme al futuro direttore generale di quell'azienda per costituire l'azienda. Al tempo in Indonesia bisognava avere un'autorizzazione del Ministero dell'Industria perché non era aperta agli investimenti esteri, poi dopo è stata aperta. Quando io sono andato al Ministero dell'Industria con quest'altro mio collega, eravamo in sala d'attesa, nella sala d'attesa c'erano due porte sulle quali c'era scritto governo olandese e governo tedesco. Io ho chiesto che cosa fossero, in quelle due stanze c'erano due funzionari dei governi dei due paesi, i quali erano stati lì preposti a supportare, aiutare qualsiasi azienda dei due paesi che si fosse presentata al ministero per aprire una pratica di creazione di un'azienda in Indonesia. Ecco, questa era una cosa che io ho riconosciuto essere tutto sommato l'uovo di Colombo, ma molto molto importante per l'imprenditore medio, piccolo, grande che fosse, tedesco o olandese, che si fosse presentato in quel momento al ministero. Noi avevamo gli uomini ICE, ora non me ne voglia nessuno, ma io ricordo che loro erano famosissimi e conosciuti per essere i più bravi nei vernissage e nei cocktail. Ecco, magari la presenza italiana era limitata alla pizzeria Bella Napoli. Esattamente, ma non c'erano neanche i supporti, capisce? Quindi l'azienda italiana, io capisco le difficoltà, io ho avuto la fortuna di andare lì come rappresentante del gruppo Swarovski, quindi tutto sommato avevamo tutte le strutture interne, nonché anche la capacità, quindi legali, organizzative, di partire per i fatti nostri senza dover chiedere a nessuno. Ma il piccolo medio imprenditore italiano, e noi sappiamo che l'Italia è fatta di piccola e media imprenditoria, come fa da solo ad affrontare questo tipo di problematiche? È chiaro che o non va oppure ha un alto grado di mortalità, fra virgolette, perché non riesce probabilmente a gestire da lontano una complessità di questo genere senza supporto. Comunque, per concludere, dottor Marra, diamo una parola di ottimismo. Il fatto che l'Italia riesca ad avere i successi, le industrie italiane riescano ad avere i successi che hanno avuto, vuol dire che con un po' di interventi in più e di aiuti in più forse si può ancora riuscire a fare meglio, ancora riuscire ad uscire veramente da queste difficoltà degli ultimi anni. Io credo, guardi, che, e non lo dico veramente perché sono italiano, negli anni di esperienza che ho, io le posso dire che gli imprenditori e i manager italiani sono veramente migliori al mondo, perché riescono a far crescere l'industria italiana malgrado tutti i vincoli o malgrado tutte le mancanze. Grazie. Non ci vuole moltissimo. Non ci vuole molto, e grazie al dottor Marra di essere stato con noi, Alfonso Marra, amministratore delegato di Club International, un'azienda business to business che ha la sua sede e il suo stabilimento a Frosinone con circa 400 dipendenti, vende in tutto il mondo, solo il 4% del fatturato in Italia, un'azienda che dimostra che si può fare impresa, si può fare industria, si può fare manifattura in Italia. Grazie ad Alfonso Marra, grazie. Anche buonasera a Peter Bescapè in regia e a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona serata.